Brasil. A nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Contropiede della Corea che è veloce, prova a farsi vedere i due lì, lì pensa al tiro, eccolo che arriva! Kimpeyev! Alla fine ce la fa a segnarsi da solo! 1-0 per la Corea! Si continua per il vantaggio Zagoyev, Jung non la tiene, rimpallo, la palla ancora lì, Kerzakov! Sempre Kerzakov! La storia della Russia! Peguli va giù ed è calcio di rigore! Peguli! Spiazza Courtois, l'Algeria è in vantaggio, il Belgio sotto pressione! Va incontro Mertens, la palla per Fellaini! Che ci mette la testa, esce dalla panchina e pareggia Marouane Fellaini, 1-1. Con Hazard, libero Mertens che chiama il pallone, Origi fa il taglio a liberare lo spazio per Mertens in area, Mertens con il destro fa 2-1, ribalta la situazione, la squadra di Wilmots, decisivi cambi. Dopo le prime indicazioni per tutti, il Brasile di Filipao sale qui nel nord-est del paese, al Castelao. In palio c'è un pezzo di qualificazione per tutte e due le nazionali protagoniste oggi qui. È mio, è seu, oggi è tutto nostro. Però qui non avevamo gol da farvi sentire, ragazzi, qui proprio 0-0 del Brasile che si è schiantato contro un giocatore perfetto per il Milan. Lo diciamo subito, credo che Galliani sia già in movimento, Ochoa. C'è un portiere messicano scontrattato, passatevi questo neologismo terrificante, privo di contratto ma con due mani d'oro, ha parato tutto e più di tutto, ma ragazzi il fatto che Ochoa sia stato il migliore di questa brutta partita non significa che il Brasile abbia giocato bene, tutt'altro, anzi io credo che da quelle parti siano già vagamente preoccupati e tra un attimo lo scopriremo quando tra 3 minuti arriverà Pardo, ma anche un altro ospite che ci racconterà cosa sta succedendo dietro la Seleção di Felipe Scolari, che insomma se si spegne quel ragazzo con la testa strana, cioè Neymar, davvero sembra non avere molte risorse, molte alternative. E lo diciamo fin dall'inizio, il centrocampo brasiliano non ha grandi interpreti. Certo, avesse Pirlo sarebbe un'altra storia. Quanto al resto, il Belgio che era attesissimo, che è il pronostico più facile tra le underdog in grado di fare molto bene a questo mondiale, ebbene, gli è stato messo in scacco per un tempo da una magnifica Algeria. Algeria perfetta quella di ieri, che se non esagera con l'entusiasmo riesce quantomeno a portare a casa un pareggio. Invece Fellaini, che ha fatto disperare il Manchester United per tutta la stagione, giocatore totalmente irrilevante nel pessimo United di quest'anno, è entrato e con quel suo capoccione ricciolute è riuscito a rimettere in corsa il Belgio, e poi è entrato Martens che ha fatto il Martens. I tifosi del Napoli, ma tutti i tifosi italiani lo conoscono perfettamente, Martens entra ed è letale. Poi possiamo domandarci perché non giochi fin dall'inizio, possiamo chiederlo a Benitez come a Wilmots e magari non ricevere alcuna spiegazione. Nella notte la Russia di Capello è stata malmenata dalla Corea del Sud sul piano della corsa, del ritmo. Li hanno fatto girare la testa, li hanno buttati sulla giostra, li hanno battuti con una papera terrificante del portiere russo. L'intera Ucraina era pronta a scendere in piazza per festeggiare la vittoria della Corea del Sud, invece è arrivato il pareggio e Capello può respirare. Tanti temi molto interessanti, e poi parliamo dell'Italia, dove si sta disegnando, è in via di costruzione la squadra che affronterà Costa Rica. Torna Buffon, fuori Paletta, dentro Abate, una difesa più logica con Abate a destra e Darmian a sinistra nei loro ruoli di competenza, Chiellini che torna al centro insieme a Barzagli, mi sembra la soluzione più normale, e Thiago Motta che andrà a prendere il posto di un Verratti che pare già un po' affaticato. 800240024 è il vostro numero verde, ti aspetto qui. Tutto molto bello. tutti convocati. Cho è un grande portiere, ha fatto delle grandi parate anche questa stagione con Ajaccio, il campionato francese. E ho detto prima di iniziare la partita che questo era un grande portiere. Ha meritato di ha fatto tutte le parate che ha fatto oggi. La partita è stata molto uguale, quindi ho sbagliato l'ultimo colpo di testa, però ci sta una partita così, anche perché faceva troppo caldo, però abbiamo provato fino alla fine. Vabbè, Thiago Silva prova, tenta qualche giustificazione, qualche difesa d'ufficio di un Brasile che però insomma, io credo abbia spaventato un po' il popolo brasiliano. Come detto, Brasile gioca sotto ritmo e sotto tono, non riesce a trovare alternative al suo attacco. E stasera poi vediamo, adesso cominciamo a vedere alcune cose interessanti, perché comincia già ad essere tempo di calcoli, non solo per il Brasile, che tra l'altro dovrebbe incrociare con l'Italia, come sappiamo, Brasile e Olanda, secondo le circostanze, ma prima aspettiamo di passare il turno, di vedere dove saremo. Sono altri discorsi questi. Stasera si sente già profumo di biscotto da altre parti, perché c'è un Olanda, Australia, ma soprattutto uno Spagna-Cile che potrebbero rendere la situazione di questo girone, a seconda dei casi, intricatissima o semplicissima, complice un ultimo atto tra Olanda e Cile che potrebbe essere qualcosa di strano. Io voglio... Eccolo qui. Ciao Pardo, ciao Pierluigi. Come va? Benissimo. Come va? Io ringrazio anche un nostro ospite brasiliano, dao Brasil, Luiz Gustavo Monaco, giornalista di Estado de São Paulo. Ciao Luiz, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao Luiz. Brutto, siamo io e Pardo, eh? Ciao. Siamo io e Pardo che ti interrogheremo. Sì. Senti, Luiz, brutto sì. Brasile, bruttissimo Brasile, se Neymar non accende la luce, ed è lui l'unico ad avere le chiavi per accendere la luce, non si vede niente. Sì, è vero, brutto Brasile ieri, la squadra non sta giocando bene come ha giocato soprattutto nelle ultime partite della Confederations Cup l'anno scorso e nella finale con la Spagna. Il Brasile riusciva l'anno scorso a fare una blitz all'inizio delle partite, una marcatura alta, e andava in vantaggio subito prima del primo quarto d'ora, ma invece adesso fa fatica a creare occasioni. Ieri contro il Messico ha rischiato molto, il Messico ha avuto delle sue occasioni anche con i tiri da lontano, perché Paulinho ha giocato molto male, Dani Alves, Fred non riesce a creare occasioni per segnare. Non so, credo che Scolari farà uno o due cambi per la prossima partita contro il Camerun. Quali potrebbero essere secondo te? Da quello che si dice qui in Brasile, vogliono Maicon al posto di Dani Alves, e un cambio anche al posto di Paulinho, che non sta giocando bene, forse Hernanes o Fernandinho, quello del Manchester City. Sì. E probabilmente nella prossima partita rientra Hulk, che ieri non ha giocato. Ma contro il Camerun è probabile che faccia. Piano, dicevi? No, volevo capire se uno come Diego Costa, come viene vissuto in Brasile questo rifiuto a Diego Costa, che poi l'ha portato a essere comunque convocato dalla Spagna, nel senso che a parte Neymar e con tutte le polemiche che ci sono in questo momento su Fergie, come dite voi, mi sembra che poteva essere utile, quantomeno poteva essere nella rosa, o no? Sì, Diego Costa, Scolari ha fatto un'intervista 15-20 giorni prima del Mondiale e ha detto che Diego Costa rientrava nei suoi piani per i Mondiali, ma i brasiliani, non so se hai visto contro l'Olanda, la partita della Spagna-Salvador, i tifosi lo fischiavano, lo insultavano sempre, perché non ho capito molto, lo credo un po' un traditore perché ha scelto la Spagna all'ultimo minuto. Se Scolari lo chiamava, no? Sì, Scolari ha, ha fatto male, non si è comportato bene, doveva averlo chiamato prima, però per i tifosi non arrivano così. Credo che Diego Costa e gli imprenditori l'hanno pescato, e oggi sicuramente il Maracanã farà la stessa cosa contro il Cile. A parte che oggi sicuramente i brasiliani del Maracanã faranno il tifo per il Cile per mandare via la Spagna. Non è difficile mandare via questa Spagna, per la verità. Non saranno i soli, credo. Non saranno i soli, ma poi la Spagna. Poi ne parliamo del premiato biscottificio olandese-cileno che potrebbe prefigurarsi all'ultima giornata. E io dico già. Tu lo sai, Pier, che io sono, insomma, se si creano queste situazioni, anche questo è sport, perché in una competizione come il mondiale si gioca ad eliminare gli avversari, questo lo sappiamo. Ancora una cosa volevo chiedere a Luis Gustavo, che è questa: la pressione, che è già tanta su un Brasile non perfetto ancora, diventerà enorme, sempre più difficile da gestire, sempre più asfissiante, io credo, dopo questo pareggio. Già non era facile prima, l'hanno detto anche i giocatori, giochiamo con un nodo allo stomaco, e perché è così. Adesso, dopo questo pareggio, sarà ancora più difficile. Sì, sicuramente, ma Scolari di solito è bravo a gestire queste situazioni con i giocatori, e vediamo come si comporteranno con il Cameron. C'è un problema, una cosa che ci preoccupa molto è che Neymar ha una munizione. Si pensava ieri, se la partita fosse andata di una maniera diversa, così vincesse con un po' di tranquillità, poteva farci ammonire per la seconda volta per non giocare contro il Cameron. Adesso dovrà giocare e rischia poi un'altra munizione di saltare gli ottavi o la partita dei quarti, poi se riesce a vincere. Vediamo come si comporteranno contro il Camerun, ma i tifosi del Brasile di solito sono abbastanza simpatici con la nazionale. Vediamo, se fosse a San Paolo sarebbe diverso, ma a Brasile l'atmosfera sarà abbastanza favorevole, credo. Secondo te che cosa è stato sbagliato? Qual è stato l'errore più grande fin qui in questa spedizione? È chiaro che è ancora tutto da fare, tutto da scrivere, che il Brasile resta la grande favorita nonostante lo 0-0 di ieri, però c'è qualcosa che fin qui è stato sbagliato? Io ho un'opinione che io avrei convocato Kaká per partire. È uno che non crea casino se deve andare in panchina. Uh-huh. In una partita come ieri, credo che uno con il nome di Kaká, con il peso di Kaká, entrando nel secondo tempo, potrebbe essere molto più utile di Jô o di Bernard, diciamo, che sono o William. E credo che Scolari è molto, molto attaccato ai suoi giocatori, molto. Non so se metterà fuori Daniels, ma Daniels è uno che già nelle ultime partite, negli ultimi mesi per Barcellona stava facendo malissimo, forse nelle partite importanti stava giocando molto male. Credo che è uno che Scolari dovrebbe pensare di cambiarlo, ma non so, credo che almeno per la prossima partita non lo farà. Grazie Luis Gustavo Monaco, ci sentiamo. Ciao. Grazie Luis Gustavo Monaco, giornalista di Estado a San Paolo, è stato molto chiaro e ha detto anche una cosa molto interessante: perché non portare Kaká in questa squadra che tanto talento non ha? Ti è giusta la rima, Pier? È vero. Certo che è vero. Ai mondiali devi portare giocatori forti, poi stai a guardare la carta d'identità o da dove vengono, eccetera. Tu porti tutti i migliori, quelli che sono più funzionali a farti vincere, e al Brasile Kaká manca, è chiaro. Adesso vedremo quando andrà a finire, ovviamente, in questo momento di depressione brasiliana, la sensazione è che ci sia fatti un po' condizionare proprio dal finale della Confederation, Mi ricordo che l'anno scorso, quando c'era la Confederation, il Brasile aveva mille inquietudini di carattere tecnico, perché insomma questa è forse una delle brasiliane con meno talento della storia. Esatto, poi ha delle qualità, la squadra è equilibrata, non è da buttare via, però insomma siamo abituati a un calcio brasiliano che propone dei talenti mostruosi, Ronaldo, Ronaldinho, Zico, Cerezo. No, ma poi Pier, molti fanno il parallelo con il Brasile del 94, che pure vinse il titolo, dimenticandosi però che vabbè, al di là di Romario e Bebeto, che uno era Romario era un killer dentro l'area di rigore come se ne sono visti pochi nella storia del calcio, e Bebeto era quello che scardinava le difese in mille maniere, ma quel Brasile, ma se a stare Dunga, aveva il signor Leonardo ad esempio, che giocava terzino sinistro, aveva comunque dei giocatori di altro livello anche a centrocampo. Quindi a me il paragone più semplice, secondo me il paragone più pertinente è quello con lo scarsissimo Brasile di Italia 90, che infatti fece una brutta fine. Ma voglio chiederti ancora una cosa, Pier, un'opinione prima di andare alla borsa. La mia opinione, cioè quello che ti chiedo è questo: Neymar ha davvero le spalle tanto larghe e il talento così sconfinato per caricarsi tutta questa montagna sulle spalle? Guarda, Neymar ieri ha fatto un colpo di testa talmente bello in anticipo, con palla veramente in buca d'angolo, che se Ochoa non ci arrivava avremmo parlato di un'altra cosa, di uno dei gol più belli del mondiale. Poi delle volte, soprattutto nelle partite secche, è anche il destino che condiziona. Insomma, fra l'azione meravigliosa di Messi dell'altro giorno e quella di Neymar di ieri col colpo di testa, con Ochoa che salva miracolosamente, non è che ci sia tutta questa differenza. Secondo me sono stati due gesti tecnici eccezionali all'interno di due partite abbastanza anonime. La differenza è che da una parte il portiere ci arriva e dall'altra no, poi perché dal campo ha sempre ragione, per cui se Ochoa ci è arrivato e invece Messi è riuscito a segnare, un motivo ci sarà. Però insomma, detto questo, in generale non voglio scappare dalla domanda, è ancora presto secondo me per dirlo definitivamente. È un ragazzo di grande talento, di enorme talento, però insomma non è la terza di serie numero uno del mondiale, cioè è uno secondo me fra i primi 5 giocatori del mondiale. Ma perché vedi, a lui non si chiedono solo i gol, non si chiede di essere solo la stella più luminosa in una squadra di stelle come può essere Messi nel Barcellona, possiamo fare mille paragoni. In casi come questo, a un giocatore così, al tuo capo giocatore, alla tua unica superstar, chiedi molto di più da ogni punto di vista, chiedi di essere trascinatore, condottiero, quello che risolve i problemi, quello che si prende anche tutte le responsabilità ed eventualmente tutte le colpe. Secondo me non ha forse non ha ancora il physique du roll per reggere tutto questo. Può essere davvero un altro limite ulteriore per il Brasile. Borsa, poi di nuovo qui con Pierluigi Pardo, con voi, con altri ospiti. 800 24 00 24, numero verde. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Tutti convocati. Allora Pierluigi Pardo, sentiamo cosa hanno da dire gli ascoltatori. Ti va? Eccoci, sì, certo. 800 24 00 24, numero verde. Andrea, Reggio Emilia, Riccardo, Manto. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ciao. Carlo. Ascolta, allora io sento questa notizia da un paio di giorni. Sembra che Messi voglia giocare con Higuain anche nel club. A quanto pare? Ecco, io fossi nel presidente De Laurentiis, che è un provocatore, direi venga Messi al Napoli, no? Così ricalca le orme del suo predecessore e dimostra di saper vincere anche con una maglia diversa dal Barcellona. Sì. I soldi per l'ingaggio li trova. In più... chi li trova i soldi per l'ingaggio? Cioè deve vendere. Li trova. Deve vendere Andreino forse. Amico mio, non li trova i soldi per l'ingaggio. Mi creda, o vende Capri con cui ha già avuto qualcosa da dire, o vende Capri, oppure i soldi non li trova. Si fidi. Bellissimo, meravigliosa, è una provocazione. Meravigliosa suggestione. Che soldi. Pardo, vendiamo Capri e prendiamo Messi? No, io mi tengo Capri. Io mi tengo Capri. Tutta la costiera, tutta la penisola, i gamberi dei Galli, Nerano, la pasta con le zucchine, non faccio pubblicità, ma insomma, ci siamo capiti. Potrebbe, io sarei infastidito se fossi De Laurentiis, ti dico la verità. Ma che vuole? Che vuole Messi? Che vuoi? Higuain è mio, cosa dici? Ma invece io la vedo, forse perché sono un ottimista naturale, la vivo come un'opportunità, cioè, di mercato? Insomma, ragazzi, non è che oggi è inutile che ci veniamo in giro, e noi società come il Barcellona, il Real, il City e il Paris Saint Germain con quel budget non ce l'abbiamo, quindi siamo subito dietro, per cui se arriva il signor Barça che vuole a tutti i costi Higuain, tirasse fuori 50-60 milioni e se ne parla, secondo me, e fai una plusvalenza clamorosa e vai e magari prendi, non so, Mandžukić o prendi, sì. Cioè, voglio dire, mi sembra che questa sia la dimensione. Negli ultimi anni il mercato spesso l'hanno determinato soprattutto, sì, le pressioni, la capacità di vendere bene. Quando, sì, trovi un grande compratore, cioè sono 4-5 in giro per l'Europa, che si appassiona e impazzisce per un tuo giocatore, di solito è una bella notizia. Detto questo, questa è una bella notizia. Napoli però ha bisogno, il Napoli ha bisogno di raggrupparsi intorno. Sappiamo, non è forse una visione troppo romantica, ma Napoli e Napoli hanno bisogno di un simbolo di questo tipo di Higuain. Quindi, certamente, fosse un altro giocatore, la storia appena iniziata. Quindi, secondo me, se c'è un giocatore che il Napoli dovrebbe per forza tenere in questo momento, proprio Gonzalo Higuain. Riccardo Mantova, buongiorno. Buongiorno. A proposito di Brasile, ho sentito prima, insomma, Scolari non può più non vedere che il Brasile non gioca. Non si è mai visto una squadra come il Brasile che non propone calcio, non giocano con quei fraseggi, con quella fantasia che li hanno sempre contraddistinti. Sì. Non so, lasciare fuori anche Hernanes, così, senza, che forse è uno dei pochi lì in mezzo in quel centrocampo che può giocare palla a terra con degli scambi anche abbastanza veloci, mi sembra un po' un'assurdità. Paulinho purtroppo non è più quel giocatore decisivo che era un paio d'anni fa, certo, anche in Confederation, e Kaká è in vacanza qua e là con delle amiche. E questo, okay, questo è un altro fatto, cioè questo è un altro fatto, certo, perché certo, il collega, secondo me ha ragione il collega brasiliano, Kaká è uno che va lì, non rompe le palle, può giocare anche da giocatore tattico, da giocatore di esperienza, e poi ai piedi quando ti serve può entrare e qualcosa risolvere. D'altra parte, Riccardo, si faccia raccontare da Pardo dove nasce il gioco. Dove nasce? Centrocampo, no? Calcio. Dove nasce? Ah, centrocampo, pensavo in Inghilterra, sì. No? Centrocampo. No, Kaká, tra l'altro, l'abbiamo visto l'altro giorno in Brasile, Croazia, col, sì, filmino del calcio di rigore, col figlio che è andato a salutare Neymar come se fosse ovviamente il suo eroe, e fa abbastanza ridere perché comunque suo padre non è uno normale, no? No, è certo. Il calcio in Brasile nel mondo è un pallone d'oro. No, ma sono d'accordo, insomma, il talento è poco in questa squadra e può ancora aggiustarla, secondo me. Ma chiaro. Ma la cosa un po' inquietante, secondo me, del Brasile è che ha anche concesso palle gol. Cioè, al di là del fatto, poi ci può stare che non vinci una partita, Ochoa ha fatto una prestazione incredibile. Però, insomma, io qualche scricchiolio lo vedo, eh. Cioè, un po' di palle gol, il Messico ce le ha avute. Non lo so, non mi dà un'idea di una squadra clamorosamente impenetrabile. Sentiamo se questa è anche l'idea di Maurizio Crosetti, che oggi inizia su Repubblica, il suo pezzo così. Dubbio atroce se questi ragazzi vestiti di giallo non fossero mica i più bravi del mondo? È un dubbio che abbiamo tutti, buongiorno intanto. Ciao. A voi amici, allora. Ecco, è un dubbio che abbiamo tutti, che hanno soprattutto 200 milioni di brasiliani. Ieri erano pronti naturalmente all'ennesima festa e io sono a Fortaleza, proprio di fronte all'oceano, poveraccio me, ecco, e dove si erano accampati ovviamente tifosi, centinaia di migliaia di tifosi aspettavano lungo tutta la costa di far la notte in bianco, e invece questa sera, ieri sera sembrava di essere nella Torino degli anni 80, quando alle 10:30 di sera, dopo l'ultimo brodino, si andava a dormire. Un mortorio totale. O sul lungomare in Romagna d'inverno, a gennaio. Maurizio, fai una domanda all'allenatore di Ochoa, a colui che ha allenato Ochoa quest'anno, portiere del Messico che ieri ha preso tutto, giocava nell'Ajaccio, allenatore Fabrizio Ravanelli, collegato con noi. Fagli una domanda tu, Maurizio Crosetti. Ciao, che piacere. Ciao Fabrizio. Evviva. I più grandi, senti, giornalisti d'Italia, chi? Maurizio Crosetti, sì. Soprattutto i più alti, veramente. I più competenti anche. Ecco, viva, grazie Fabrizio. Senti un po', ma forse l'hai già detto sicuramente, abbiamo scoperto che questo ragazzo è svincolato. Ho letto già delle agenzie questa mattina in cui tu dici che lui sarebbe già pronto per l'Italia. Immagino che adesso ci sarà la coda davanti alla porta della sua stanza nella hall del suo albergo, e volevo sapere da te se davvero lo consiglieresti a una nostra squadra e se pensi che questo portiere ieri abbia vissuto la giornata della vita o se sia effettivamente così forte. No, la giornata della vita no, credo che sia un buon portiere, sia pronto anche per il campionato italiano. È logico che in Italia ci sono portieri bravi, ma lui credo che possa stare benissimo nel campionato italiano. Lui è molto bravo nel posizionamento, se voi fate caso anche alle parate, non è che si butta da palo a palo, lui è sempre nella zona della traiettoria da palla. È un portiere simile a Zoff, a Peruzzi, stile grande posizionamento, deve migliorare un, secondo me, qualcosa sulle uscite, però credo che sia un portiere molto reattivo, molto forte tra i pali, e poi soprattutto è un grande professionista, un professionista eccezionale, sempre pronto a lavorare a testa bassa, quindi credo che sia uno di quei portieri che, se fossi un presidente della società, prenderei al volo. Pierpardo, una domanda anche per te a Ravanelli. Sì, innanzitutto complimenti al tuo preparatore dei portieri, insomma mi sembra che avete lavorato molto bene su di lui, ma che cosa manca invece? La partita di maggio non l'avrei vista, che cosa ti sembra che manchi al Brasile? Soprattutto uno come Diego Costa tu l'avresti non considerato, come poi di fatto è successo con Scolari, in quella situazione lì? Ma io dico che il Brasile in questo momento manca un po' tutto, tranne 3-4 giocatori, Neymar, Thiago Silva e Oscar siano stati positivi. Poi il Brasile mi sembra che sia una manovra un po' troppo compassata, una squadra che sia anche, mi sembra, carente a livello fisico. Ci sono squadre, se il Brasile non giocasse in casa, in questo momento saremmo tutti a dire che sia una delle squadre candidate ad uscire. Forse perché gioca in casa, questa tensione, questa candidatura a vincere il campionato del mondo, forse non so se li sta bloccando, ma una squadra che secondo me non rispecchia tutto questo grande valore tecnico, perché ci sono giocatori, anche scelte tecniche, che mi lasciano un po' perplesso. Il fatto che giochino queste due centrali a centrocampo con Gustavo che è bravo nell'interdizione e anche nelle geometrie, ma poi nella costruzione del gioco vedo un centrocampo un po' troppo lento, quando ci sono magari giocatori come Hernandez e in pratica Fernandinho del Manchester City che potrebbero fare molto meglio secondo me. E poi in avanti hanno dei grossi problemi, perché sia Fred che Fred sono due giocatori all'altezza della fama degli attaccanti brasiliani. Questo è sicuro, e questo lo sanno anche loro, tanto che non Fred è il giocatore credo più odiato del Brasile intero. 14 ha fatto solo 7 gol. Certo. Volevo dire, Joe ha giocato nell'Atletico Mineiro, non ha fatto una grandissima stagione, e quindi anche lui Gustavo è un buon giocatore, per dire, a centrocampo, e nel Wolves ha fatto un buon campionato, ma Paulinho nel Tottenham ha lasciato un po' desiderare, ha fatto due partite non la sua altezza, quindi vedo un Brasile può in questo momento non all'altezza della situazione. Squadre come Olanda, Germania e Italia hanno senz'altro impressionato sotto anche il punto di vista del gioco, non solo a livello fisico. Sì, sì, ma sì. L'Italia, Olanda e Germania mi sembrano squadre che hanno costruito i loro risultati tramite il gioco, con una ideologia di gioco, mentre in Brasile mi sembra che ancora sia la ricerca del modulo più giusto nel poter riuscire a vincere le partite. Sì, il Brasile mi sembra aggrappato terribilmente a Neymar, e se lui non riesce ad accendersi diventa difficile con quegli attaccanti che tu hai menzionato, con un centrocampo un po' così, trovare delle soluzioni diverse. Fabrizio, ti ringrazio, ti abbraccio. Niente, grazie di tutto, grazie Fabrizio. No, Ravanelli, grazie. Mi tengo invece il mio Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti dopo il traffico, che vorrei parlare di un paio di altri argomenti. Soprattutto mi sta a cuore quello del presunto biscotto che si profila. Monsieur, caccia gli sordi se poi prende che andrà via. Tutti convocati. Van Persie y Robben fue superior a nosotros, nos ganaron el partido y a partir de ahí, pues mirar para adelante y ver que todavía hay una solución. Ha sido una derrota parcial, esperemos que no sea una derrota definitiva y que tenemos, estamos, está todavía en nuestras manos, no estamos en manos de nadie. Non siamo in mano di nessuno, dice Vicente Del Bosco alla vigilia, il che non è vero, il che non è vero, perché no, è vero, la Spagna fa 6 punti, basta. Sì, deve battere 3-0 il Cile. Deve battere il Cile. Deve battere. Tu dici l'arrivo contro la differenza reti, eh? Certo, sì. Contro la differenza reti. Deve vincere con diversi gol di scarto sul Cile. Però tu sei cervellotico, cioè tu stai dicendo che l'Olanda batte l'Australia e poi l'ultima la regala al Cile. Claro. Io sono come il signor Cruciani, non dimenticartelo mai, che ha già cominciato a fare tutti i calcoli di tutto il mondiale, dopo 5 minuti aveva già tutti i calcoli. Cruciani, che ieri, anche grazie ai nostri stimoli nella classifica del Twittao, ha finalmente mosso la classifica, è sempre penultimo a pari merito. No, però Maurizio, però, la possibilità di biscotto è presunta naturalmente, ma esiste, perché... e io dico anche, esagero ovviamente, prendo tutti gli insulti del caso, in una competizione del mondiale eliminazione diretta valgono anche eliminazioni di questo tipo, varrebbero anche eliminazioni di questo tipo. Tu sei il Cile, sei l'Olanda, arrivi in una determinata situazione al confronto diretto, la partita tra Spagna e Australia a quel punto non conterebbe più nulla, la Spagna può vincere anche 18-0, se il Cile batte 1-0 l'Olanda, Olanda prima, Cile secondo, con buona pace di Vicente Del Bosco. Così, insomma, non è che possiamo scandalizzarci, abbiamo esempi anche come dire, di pesantezza gastrica noi italiani, abbiamo ancora sullo stomaco il biscottone del Portogallo, nessuno l'ha digerito, era uno di quei biscotti, la Luisona di Stefano Benni, era il biscotto rimasto nella vetrinetta del bar per anni, ce lo siamo ingoiato noi purtroppo, è ancora lì, non va nessuno giù questo biscotto, sì per carità, penso anch'io, poi per carità in questi casi tirano fuori le diversità di cultura sportiva, il fatto che tutto il mondo ti guarda, però sono tutti furbacchioni, quando è ora, se puoi cacciare fuori i campioni del mondo ma senza fai. Farti del male, perché ma, no? Ma, perché... ma saresti faresti un errore a non farlo, cioè adesso possiamo fare mille discorsi sull'etica, ma anche questo è sport, secondo me. Sì, se no c'è una differenza, ma poi non c'entra l'etica, ditemi. Non è la parola giusta, non è la parola giusta l'etica, qui è la pratica, è quasi assonante, no? È un problema pratico, non etico. Pier. E quindi se possono fare il biscotto lo faranno. Sì, no, io credo che ci sia anche una differenza su quello che succederà oggi, nel senso che dando per scontato che l'Olanda batta l'Australia, se il Cile fa pari, se il Cile vince oggi non so di che stiamo parlando, se il Cile dovesse pareggiare a quel punto è molto facile, diciamo, ed è anche insomma un po' meno scandaloso fare un pareggio, adesso stiamo proprio giocando, facendo fantacalcio, però a quel punto la classifica sarebbe 6-4-1-0 con la Spagna che l'ultima batte l'Australia, il pareggio fra Olanda e Cile in effetti non so che quota avrebbe per i bookmakers. Il biscottone o la sconfitta dell'Olanda, l'arrivo a 6 con la classifica avulsa, mi sembra un po' più complicato e un po' meno elegante. Detto questo, poi l'eleganza tante volte l'abbiamo vista sparire, anzi ci siamo sentiti dire che ho rischiato l'arresto perché Foroni nel 2004, che faceva il coordinatore dall'Italia, mi ha mandato a fare un pezzo con i biscotti olandesi, svedesi, ho rischiato veramente l'arresto. Ma sì, vai, straordinario, penso anche divertente. Vai avanti tu che mi viene da ridere, vai. A un certo punto mi hanno bloccato, è uscita un'ansa, giornalista italiano, fermato con un pacco sospetto, ai biscotti danesi che volevo portare, volevo fare questa cosa tipo Iene, ma non ero capace. Vabbè, quindi e ci siamo sentiti dire in quella circostanza che no, Svezia e Danimarca, anzi addirittura ci hanno fatto il pippone sulla rivalità storica fra Svezia e Danimarca. Sì, e noi ci abbiamo creduto, sicuro, guarda. No, noi non ci abbiamo creduto, infatti poi guarda caso all'89esimo hanno pareggiato. Vabbè. Però sì, insomma, secondo me oggi fa un po' di differenza, Sì. Oggi fa un po' di differenza. Fa tutta la differenza del mondo, dai. Anche perché poi, come ricordavi tu, insomma, siccome poi a quel punto in caso di arrivo a quota 6 conta la classifica avulsa, la Spagna è ancora padrona del suo destino. Nel senso, se la Spagna dovesse vincere, per esempio, con 2 gol di scarto, si complicherebbe tutta la situazione, perché andrebbe a quel punto andrebbe almeno due, dovrebbe vincere, dovrebbe vincere con tre gol di scarto. Tre gol di scarto? Ha fatto i conti vent'anni da, fidati. Fidati. No, un'ultima cosa per. Due gol basta l'1-0 al Cile. Un'ultima cosa per Maurizio Cosetti, ti butto lì un altro tema. Capello l'hai vista? L'hai vista la Russia? Sì, l'ho intravisto tra uno spiedo di Churrasco e l'altro. Eravamo da Sal Brasa a Fortaleza con i colleghi Riotta. Conosci Pier? Signori colleghi. E quindi c'era un maxi schermo coperto spesso dall'andirivieni di camerieri maxi, anche loro più maxi, sì. Però sì, ho visto ovviamente la patera del sì. Portiere russo, la reazione, era coperto anche lui. Tu sai Maurizio che in Ucraina erano pronti a scendere in piazza tutti, se la Corea del Sud avesse vinto. Immagino proprio di sì. No, ti do uno spaccato di tifo contro trasversale, hai capito? Ti do uno spaccato di tifo contro trasversale. Sì, purtroppo scendono in piazza per ragioni sì, più drammatiche, comunque sì, effettivamente. Non ci facciamo mancare niente in questo mondiale, come incroci anche di geopolitica. Ciao Mao, grazie. Buon lavoro. Ciao, buon lavoro a voi. Pierluigi, c'hai da fare? Rimani con me dopo GR? Che fai? Passiamo, fino alle 3:15. Ma grande, grande. Allora, Bet Corner, GR, poi di nuovo qui, 800-24, 0024, numero verde. Quote e pronostici. Sono altre tre le gare in programma quest'oggi al Mondiale brasiliano, tra sfide delicate che coinvolgono il gruppo A e il gruppo B. Partiamo dalla gara delle 24 con la partita dell'Arena Amazzonia di Manaus tra il Camerun e la Croazia. Due squadre che cercano tre punti per rientrare in corsa per la qualificazione. Allora sono queste le quote sniper a questa partita. L'1, la vittoria del Camerun, è quotata a 5,75, l'X è a 3,75, il 2 invece, il successo della Croazia, è quotato 1,60. Alle 21 poi al Maracanã di Rio de Janeiro, ultima chiamata per i campioni in carica della Spagna che giocano contro il Cile. L'1, la vittoria degli spagnoli, è quotata a 1,50, l'X è a 4,25, il 2 con il successo dei cileni è quotato invece 6. Apre questo appassionante mercoledì mondiale la sfida delle 18 del Beira Rio di Porto Alegre tra Australia e Olanda. L'1, la vittoria della squadra oceanica, è quotata a 16, l'X è a 6,50, il 2 con il successo della favoritissima Olanda è quotata a 1,18. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, a risentirci a domani. Convocati. Allora, tanto per chiarire i termini del regolamento che conosciamo, che credono alcuni ascoltatori, i criteri del passaggio di turno dei gironi a parità di punti sono questi: primo, differenza reti complessiva; secondo, maggior numero di reti segnate; terzo, punti negli scontri diretti che li classifica avulsa; quarto, differenza reti negli scontri diretti classifica avulsa; quinto, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti classifica avulsa; sesto, la classica monetina. 800-24-0024, per Luigi Pardo dovrebbe essere ancora qui. Sì. Sì. No, però devo dire che sento adesso. Sì. Come ritorno ho una specie di tempesta tropicale. Mi sento in una. Adesso forse è meglio. Meglio, ma non sto parlando. Prova, Pardo, prova. Meglio. Fino a pochi istanti eri come dentro la casetta di Manaus. Ero dentro la casetta di Manaus, sono uscito per un attimo. Senti, ma questi cambi di Prandelli, in particolare Buffon che torna in porta, mi sembra tutto abbastanza scontato, no? Quello che abbiamo detto? No? No, non lo è? No, gioca Sirigu. Ah, gioca Sirigu per te? C'è dibattito. Io penso che però ci siano le condizioni per far rigiocare Sirigu, perché comunque anche prendersi un minimo rischio secondo me non ha senso, tanto più che facendo corna e scongiuri potremmo avere poi forse una partita morbida, spera, sì. nella quale appunto far rientrare senza problemi il nostro portiere numero uno, far rientrare magari De Sciglio, che dovrebbe farcela, sì. e magari provare tatticamente qualcosa di nuovo. Io credo che questa sia l'idea della testa di Prandelli, fare un turnover estremamente moderato adesso, quindi cambiarne un paio, come rischia Verratti in mezzo al campo, e potrebbe esserci o Thiago Motta o Parolo, e poi vabbè, l'arcano della difesa va risolto, ma per il resto secondo me lui parte con la formazione, questa vita con l'Inghilterra, e però poi insomma se se le cose vanno come devono andare, poi abbiamo una partita morbida a quel punto, si spera, per poter fare un po' di esperimenti e per poter ridare gradualmente a Buffon la possibilità di tornare. Detto questo, è chiaro, Buffon è il portiere di questa squadra. Secondo me la cosa è abbastanza del tipo che se lui sta bene dal punto di vista medico e ieri si è allenato regolarmente con gli altri, ha voglia di giocare, non ti dico che gioca per decreto, ma quasi. Sì, certo. Intanto speriamo di guadagnarci il diritto ad una partita di turnover, ad una partita di ricambio, una partita che possa servire a far riposare questo o quell'altro. Quel diritto naturalmente non ce l'abbiamo ancora, dobbiamo conquistare solo venerdì sul campo. Massimo Forlì, buongiorno. Buongiorno, un saluto grandissimo, un saluto. Grazie. Anche a Pardo. E volevo parlare della Germania. La Germania, sì. Ma che squadrone ha quest'anno la Germania? Ma strano, cioè, eh? Secondo me è pazzesca, cioè ha un centrocampo che spacca e una difesa che è impenetrabile. Cioè, forse non vince il mondiale, però secondo me questa è una delle più belle formazioni che la Germania abbia mai avuto. Poi, ripeto, incontra noi e becca due pine e via a casa. Però sono stati veramente brillanti, brillantissimi. Sì, posto che la Germania non sbaglia mai la partita, ha sempre uno splendido approccio con le competizioni internazionali. Madonna, cioè, ma sono super concentrati, sono veramente Massimo, ma, io chiedo anche a Pierluigi Pardo dov'è la notizia. No, infatti la notizia non c'è, nel senso che insomma vincere 4-0 con Portogallo non era tanto pronosticabile. Portogallo ci ha messo anche del suo, in generale sull'approccio è quello solito dei tedeschi, che partono sempre molto bene in queste competizioni, e la squadra è fortissima, lo è da parecchi anni. Ora la domanda è capire se finalmente la quadratura dal punto di vista mentale e della personalità della squadra si è compiuta, perché sul talento non ci sono dubbi, ma loro erano, insomma, hanno fatto una serie di piazzamenti negli ultimi anni clamorosi: la semifinale del 2012 all'Europeo con la vittoria dell'Italia, la semifinale del 2010 con la sconfitta contro la Spagna in Sudafrica, nel 2008 sono arrivati in finale, hanno perso 1-0 con la Spagna al Prater col gol di Torres sulla finale europea, nel 2006 sono usciti dal mondiale in casa ai calci di rigore con l'Argentina. C'è una squadra che negli ultimi anni è stata sempre comunque a un passo dai grandi traguardi, e come dicevamo, se non sbaglio, ieri, è una squadra che ha cambiato pelle negli ultimi anni, perché adesso ha giocatori anche diversi come caratteristiche, non è più la Germania dei Cancer, sì, quasi 80, sì. Con tutta gente alta 1,95 m che pesa a 90 kg. Sì. È una squadra che ha anche caratteristiche, diciamo, più mediterranee, giocatori che possono fare lo stariglio. Poi c'è questo Thomas Müller che non è che lo conosco, un giocatore pazzesco, un giocatore fantastico, perché è tutto, è uno, è il prototipo dell'attaccante 2.0, Pier, che può può giocare in ogni ruolo, dal centravanti o falso 9 a trequartista, da attaccante esterno a seconda punta, e poi è uno che vede la porta, perché i numeri sono lì a dimostrarlo. Quindi è davvero il prototipo dell'attaccante ipermoderno. Invece, che impressione ti ha fatto il Belgio, che insomma, diciamo, da molto tempo da tutti i parrucchieri, bar, eccetera eccetera, è la squadra più pronosticata tra le outsider e così via. Ieri pronti via, l'Algeria gli ha fatto fare una pessima figura nel primo tempo. L'Algeria che è stata meravigliosa secondo me nel primo tempo, tatticamente, come applicazione, è stata perfetta l'Algeria nel primo tempo. Poi nel secondo tempo hanno fatto un po' gli argini, sono un po' disunite, un po' di stanchezza, un po' di... il Belgio ieri ha vinto, sono una partita che, per come si era messa, è veramente un grande risultato. Devo dire che ieri hanno dato, se il punto di domanda era esperienza, perché il talento c'è, no? Il punto di domanda poteva essere sulla forza complessiva mentale di questa squadra così giovane, e ieri secondo me hanno dato una bella risposta proprio nella difficoltà, proprio perché la partita sarà complicata, e si è complicata all'inizio, secondo me è ancora più indicativa di una vittoria 4-0 tutto facile, cioè dà un segnale proprio forte di grande spirito. Poi ci sono i due marcatori che sono stati dalla panchina, che forse fanno capire anche che la formazione in qualche modo stava sbagliata, perché insomma Fellaini e Mertens sono due giocatori importantissimi. Mertens lo conosciamo perché lo vediamo tutti i giorni in Italia, ma anche Fellaini lo conosciamo perché ci piace il calcio internazionale. È una cosa anche molto completa. Io ho qualche dubbio in assoluto sull'esperienza. Sì, ne hanno poco, sono tutti molto giovani. A proposito di Melting Pot, il Belgio è un meraviglioso esempio di nazionale contemporanea, e poi vengono a dirci di, insomma, lascia stare questi discorsi, ma della nostra nazionale, passaportati, Balotelli e tutte queste sciocchezze. È molto giovane, ha un sacco di talento. Non mi spiego perché Martens debba sempre partire dalla panchina. Non c'è un decreto ministeriale per cui Martens debba partire dalla panchina nel Napoli, anche nel Belgio, che a me sembra un giocatore clamoroso. Vabbè, David Pisa, poi salutiamo Pardo. David, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Due cose molto in sintesi. È lei che ha scritto: fate giocare via SMS, fate giocare Sirigu, Maremma, Lupona? L'ha scritto lei? No. Non sono stato io. No, due cose molto in sintesi da SMS. La prima, Olanda 2, Romania 0, e chi vuol ricordare ricorda. Lieto e la sia. Seconda, come? Chi vuol ricordare lieto sia. Chi vuol ricordare lieto sia, e ci andò molto bene quella volta. E la seconda, Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao, e non so se questo qualcuno l'abbia già detto. Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao. Adesso non mi viene, eh? A te ricorda qualcosa, per Luigi, questo? Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao. Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao. Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao. Cioè, non è Pirlo e Marchisio come Ferezzo e Branco. Pirlo e Marchisio come Eder e Falcao. Prendiamo atto? Prendiamo atto. Poi c'è Marchisio e c'è Eder e Falcao. Cioè, Eder non somigliava tantissimo a Marchisio, era un bellissimo giocatore esterno, ma grosso modo attaccante, con una gran castagna di sinistro, abbastanza diverso. Pirlo, Marchisio, Eder e Falcao, no? Eder, Falcao e Pirlo, sì, già di più, sì, va bene, ok, prendiamo atto, quanto all'altra storia della Romania contro Biscotto, va bene, anche in questo caso prendiamo atto. Dopo la partita con la Spagna di questa sera avremo tempo di tornare, della Spagna col Cile questa sera avremo tempo di tornare comunque sull'argomento. Oggi allenamento più tardi, no? Oggi allenamento alle 13 brasiliane, quindi alle 18 italiane, e proprio perché si vuole ricreare in qualche modo, provare a ricreare in qualche modo condizioni di Recife. Tra l'altro c'è questa partenza il giorno prima, all'alba, alle 7:30. Aereo della nazionale, 7:30 brasiliane. Tra l'altro, mi sa che noi domani abbiamo qualche problema di comunicazione. Io sono in volo e adesso dobbiamo organizzarci, ma questo è un dettaglio tecnico. No, come nel caso di Manaus, insomma, Prandelli parte il giorno prima, evita anche all'alba in questo caso. Sì, non lo so, va bene. No, dici no? E poi invece, no, non lo so. No, il volo sarà anche odio le mattine, ma insomma, il volo alle 7:30 del mattino mi mette un po', no, però poi vanno. Si allenano, poi c'è stare Benni che al pomeriggio ci può stare, insomma, sono certamente più preparati di me nel decidere dal punto di vista fisiologico e poi invece ci sarà dopo la partita il trasferimento in aereo direttamente a Natal, perché Recife e Natal sono a 350 km di distanza, quindi in pratica la nazionale lascia il ritiro di Mangaratiba per 5 giorni e si allenerà direttamente a Natal, dove c'è questa incognita sulle condizioni meteo, perché insomma ha piovuto veramente tantissimo. A Recife l'incognita è il caldo, e poi insomma, come avrete forse anche letto, è stata una città dove la protesta antimondiale è stata più intensa, più violenta, con una repressione piuttosto pesante negli ultimi giorni, per cui c'è qualche incognita di questo tipo, anche se devo dire che fino a questo momento l'aspetto tecnico ha prevalso nettamente. Insomma, certo. ci sono stati incidenti, vari incidenti, e non è ancora completamente pacificato, e la sensazione è che ci sia sempre facendo la possibilità che rivampi l'incendio. Però insomma, fino a questo momento mi sembra che, un po' perché secondo me la passione del mondiale alla fine è un grande anestetizzante, nel senso che l'anno scorso diciamo di là della Confederation non gli fregava niente a nessuno delle partite, e quindi in qualche modo le prime pagine si prendevano questi tafferugli. Quest'anno è più difficile. Quest'anno è certamente più difficile. Grazie Pier, buon viaggio, sentiamo. Ciao Pierluigi Pardo. Allora, ieri De Rossi ha detto alcune cose interessanti su cui vorrei richiamare l'attenzione vostra e di un nostro ospite già in linea. Il basket ed è facile amarlo, soprattutto quando lo guardi a quei livelli, è uno spettacolo nello spettacolo continuo, e pur non conoscendo Belinelli sono contento. Io sono sempre uno di quelli che insomma tifa anche alle Olimpiadi, mi guardo anche il tiro con l'arco, tifo per l'italiano che fa il tiro con l'arco anche se non ho mai visto una gara in vita mia, e quindi mi piace legarmi alla mia nazione, mi piacerebbe che fosse così anche per tutti gli italiani quando guardano la nazionale di calcio, a volte non succede, ma tornando a lui ha fatto qualcosa di storico e credo che se l'ha meritato, oltre perché è un giocatore molto forte che si è ritagliato il suo spazio lì in NBA, perché ha avuto una gavetta oltre che italiana anche lì in America, insomma ha girato 4-5 squadre, ha trovato la sua dimensione in una squadra già composta di mostri sacri, quindi oltre che un'impresa sportiva è stato anche un percorso umano importante, caratteriale, una doppia vittoria per lui, ho visto, si è anche commosso e lo capisco, insomma. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, ciao. Ciao, ciao a tutti. Cosa ne pensi di queste parole di De Rossi? Beh, sono assolutamente giuste, condivisibili, e proprio la fotografia in poche parole di quella che è stata la carriera di Marco nell'NBA, una carriera all'insegna dell'umiltà, della voglia comunque di arrivare, di non credere a chi magari cercava di convincerlo che sarebbe stato meglio ritornare in Europa vista la difficoltà nell'impatto con questo pianeta del professionismo. E quindi è la fotografia appunto di una duplice vittoria, ha detto molto bene, sono due vittorie, non solo quella sportiva con San Antonio, ma anche quella personale, morale, e per tenuto duro. Sì, tra l'altro lui tra i tre che sono andati di là, Bargnani, Gallinari e appunto Berinelli, sembrava il meno vocato, no, per l'NBA, una guardia comunque non alta, il normale, con certe caratteristiche offensive, con attitudini difensive da rivedere, cioè tra i tre sembrava quello meno pronto per sfondare come caratteristiche, però è stato anche quello che ha detto no, io resto qui, gioco, mi date sei minuti, io gioco sei minuti alla morte. Ha avuto comunque la fortuna, a differenza degli altri due, di andare a giocare in una squadra da titolo, ha preso l'occasione e proprio per tutto questo se l'è meritato, no? Sì, Marco sicuramente dei tre era quello meno, come dire, accompagnato da buona stampa, tra virgolette, sì. Perché Bargnani è stato prima scelta assoluta, Danilo ha questo talento spaventoso, queste qualità, anche atletico, vogliamo che lo rendano anche per certi aspetti simile un po' ai giocatori, se vogliamo, di colore che ci sono nell'NBA. Bellinelli era fondamentalmente uno specialista del team, con anche dei teorici buchi a livello difensivo. Lui effettivamente ha saputo sfruttare ogni occasione per migliorarsi. Credo che la sua parabola sia semplicemente descritta da poche parole, ovvero ai Golden State ha fatto fondamentalmente panchina e ha preso comunque coscienza di quella che è la durezza del mondo professionistico. Quella di Toronto è stata un'occasione che poi sì, ha di fatti mancata, ma i Toronto non sono neanche andati troppo lontani, c'era la possibilità di appunto di fare bene assieme a Bargnani, purtroppo è una squadra che forse quella squadra lì non ha dato molto meno di quello che ci sarebbe aspettato, ma non certo è solo per colpa del mago, come invece poi alla fine a Toronto hanno cercato di dire. Il passaggio di New Orleans è stato decisivo perché lì secondo me lui ha preso consapevolezza di poterci stare in quel pianeta e sì, di poter giocare bene. Poi ha avuto la fortuna di andare a Chicago, dove Thibodeau sicuramente è un allenatore molto duro, molto esigente, però l'ha anche un po' abituato a un certo tipo di battaglie e devo dire che nei playoff lui ha avuto l'occasione di mostrare il suo talento. E io ero sicuro che sarebbe rimasto a Chicago e a Chicago l'avrebbero tenuto. Poi ci sono state delle condizioni, mi dicevano, a livello di salary cap che rendevano impossibile la sua permanenza. Ecco, ha avuto la fortuna di questa telefonata di Popovic, secondo me non casuale, perché se è vero che Marco è stato notato dagli americani soprattutto al Mondiale 2006, ecco, al Mondiale 2006 Popovic era nella nazionale USA come assistente c'era Mike D'Antoni di Krzyzewski. Per cui credo che Popovic, poi si è consultato con Thibodeau gli ha consigliato di prenderlo e si è fidato il suo grande fiuto ed è stato ripagato direi alla grande da veramente un'eccellente stagione, sì. Sempre in crescita con qualche momento di appannamento. Sicuramente quest'anno nella serie precedente contro Oklahoma non si è visto il Bellinelli che abbiamo visto e in questa finale ha dovuto un po' sottostare alle nuove regole e situazioni. Ma lui è bravissimo anche per aver accettato, esatto, completamente, assolutamente, completamente assolutamente. Questo ruolo. Tra l'altro, tutti, bravo, esatto. Ma secondo me è questo il suo grande merito, Flavio? È questo il plus. Sono molto, molto umile, molto, molto responsabile e soprattutto con questo chiodo fisso del basket, del miglioramento, quindi è una persona intelligente perché ha capito che poi c'è anche la qualità, non c'è solo la quantità, per cui lui sarà ricordato in questa serie finale come l'uomo che ha stoppato la rimonta dei Miami in gara 3 con quella tripla molto importante e poi se vogliamo anche nella gara dell'incoronazione ha fatto quelle due belle giocate, due bei canestri che sono se vogliamo pochi quantitativamente, però si è visto proprio la sua classe, la finta con la quale si è liberato e soprattutto la precisione al tiro. No, veramente bravo, sono tutti molto contenti. Senti Flavio, il lunedì mattina è stato splendido per noi perché ci siamo svegliati con Bellinelli che alzava il trofeo NBA e ci siamo svegliati con Michael Schumacher che si risvegliava. Adesso stiamo leggendo molte cose. Ma secondo me, ecco, sul fronte di Michael, io sono un po' più, non dico pessimista, ma vorrei un po' frenare l'entusiasmo. Secondo me questa notizia, che comunque è una buona notizia, cioè il fatto che sembra si sia risvegliato da questo lungo coma, non è ancora la certificazione di un vero progresso o di un qualcosa che sta portandoci a riavere in un tempo X indefinibile la persona che abbiamo conosciuto. Potrebbe anche essere in realtà forse una missione contraria, cioè che forse più di tanto non ci si può fare. Io sarei molto prudente, è chiaro che c'è una fase 1 che è stata chiusa finalmente, non era così sicuro e scontato che Michael potesse uscire anche da questo periodo. Però, ripeto, vista anche la comunicazione scarna, volutamente legata alla privacy della famiglia, io aspetterei prima di usare il trionfalismo. Peraltro, se non altro si può sperare, ecco, sembra, però con molti, molti se e ma. Grazie Flavio. Grazie. Buon lavoro, buon viaggio. Grazie. Verso l'Austria, immagino, verso, no? Zetweg, sì, siamo lì che stai andando. Dalle parti del Piave ormai, rotta verso Zetweg. Buon viaggio, grazie Flavio Vanetti. Grazie a voi. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo per la borsa, poi torniamo, vi raccontiamo un sacco di curiosità su questi mondiali, tra le altre cose, ma soprattutto aspettiamo voi, 800240024, ovviamente anche oggi come tutti i giorni, la maglietta di tutti i convocati per il migliore in campo. Tutti convocati. Antonina, che che cos'è sta roba? Ma è la straordinarietà del mondo. Tra il Tirolo e il Messico. No, no, sono i mariachi messicani. No, straordinari. Cioè, neanche il tempo di finire, che la partita in Messico-Brasile finisca, che lo Tres Tigres, questo gruppo di mariachi messicano famosissimo, tra l'altro, senti che qualità, hanno subito fatto questo pezzo fantastico dedicato al Memo Cho, all'eroe, ormai eroe. E così con questa roba salutiamo l'ingresso del Pianta. Ricordo a Roberto da Belluno, Andrea da Torino, sono già in linea, 800 24 00 24 è il numero verde. Ricordo, noi facciamo un servizio multitasking a todo il mondo naturalmente, quindi ricordo a Emanuele da Cuneo che lei alle 15.50, quindi esattamente tra 14 minuti, deve andare a prendere sua figlia all'asilo e deve portarla in piscina, mi raccomando, eh. Eh sì, perché poi alle 18 sei tutti davanti al televisore per i mondiali, quindi tutto, mondiali, tempi serratissimi. Olanda, Australia. Mica male, eh? Andrea da Torino, buongiorno. Andrea, scappato? L'hai Andrea fatto scappare? No, io l'ho fatto spaventare. No, eccolo, Andrea. Andrea? Pronto? Eccoci. Eccoci. Dica. Allora, volevo fare una considerazione. Sì. Io l'ho viste quasi tutte le partite, ma da quando hanno preso questo spray? E l'hanno messo, non ho visto gol tanto su punizione. Ho l'impressione che forse quando la barriera è più vicina è più facile fare gol, perché non vedo molti gol su punizione. Non so se ho una mia considerazione giusta o sbagliata. La considerazione giusta sta nel fatto che a me questi esperimenti, queste piccole innovazioni, quella barbara, no? Quella del carnevale, forse. Quella del carnevale, una roba simile. Insomma, comunque è una roba che va via, non è nociva, non è tossica, non succede niente, semplicemente aiuta l'arbitro a far rispettare i giocatori stessi. Ma c'è stato l'altro giorno che non ho messo un quintale, io ho detto quasi quasi finisce nella palla e la palla diventa viscida e magari segna, no? Può essere un trick? No, io non credo. No, trovo, al di là di tutte le considerazioni anche scherzose che si possono fare, trovo che queste soluzioni che stanno adottando ai mondiali, questa dello spray che probabilmente verrà utilizzata, io lo spero vivamente anche in Europa, perché sembrava solo una trovata scenografica, invece effettivamente secondo me dà un'idea precisa all'arbitro, cioè dà un parametro preciso all'arbitro, se nel momento in cui parte il giocatore per calciare la palla vedi che c'è qualcuno al di là della linea, prendi i tuoi provvedimenti del caso. Quindi è una trovata molto semplice ma estremamente intelligente da questo punto di vista. Non parliamo poi della, finalmente dopo anni di gestazione, della tecnologia sulla linea di porta, che già ha risolto una situazione estremamente scabrosa e che penso tornerà di nuovo molto utile nel corso di questi mondiali. Semplicemente una sola considerazione: era dannatamente ora di questo. No, ma poi tu che sei dannatamente, riuso il tuo avverbio, nemico delle perdite di tempo, sì. Ci vogliono 2 secondi per stabilire un gol, perché il segnale arriva all'arbitro in 2 secondi, e quanto tempo in meno, cioè quanto tempo in più si guadagna, no? Con quella riga tirata davanti alla barriera. Una riga si calcia una volta sola, nessuno va avanti. Sì, sì. Si gioca. Che altro è successo ai mondiali? Non hanno fatto entrare Maradona allo stadio. Lo dico, cioè, di qualcosa, caro. Io volevo un tuo non l'hanno fatto entrare. Io, cioè, Maradona ieri non è potuto andare a vedere Brasile. Ieri non è potuto andare a vedere Brasile. No, non l'hanno fatto entrare. Infatti se lo sono meritato questo 0-0 con il Messico. Ha parlato, ce l'abbiamo, vai. Maradona. Presentarla si y no lo dejaron entrar. Esa es la pura verdad. O sea, ¿no pudiste entrar al Maracaná? No, lo dejaron entrar, que es distinto. Una cosa es no poder y otra cosa es que no te dejen. Cuando hay buena fe, te dejan entrar. Cuando hay mala fe, directamente olvídate, vuélvete al hotel como hicimos nosotros. Non hanno fatto entrare Maradona allo stadio, si sono meritati lo 0-0 e magari la prossima volta pure l'eliminazione. No, sai, no, aspetta, non sa che non era il Maracanã e quindi era la partita, forse la partita con l'Argentina. Argentina... Sì, perché ieri in Brasile ha giocato a Fortaleza, Argentina, quindi non era la partita di ieri, però Maradona fuori dallo stadio. Maradona fuori dallo stadio non è concepibile, perché Maradona è il calcio si gioca negli stadi. Roberto da Belluno, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione mondiale. Dica. Dalle Alpi, come la canzone di prima, volevo parlare del Pugliese. Sì. L'hanno messo in cantina come una buona soppressa. un buon pezzo di formaggio, ma riesce a durare, si matura fino alla fine del mondiale o si diventa rancido? O diventa raggido. Esatto. Roberto, c'è questo rischio, c'è questo rischio, perché il pugliese fa il bravo, fino adesso ha fatto il bravo, sì. Però ci ha dato dentro duro dal punto di vista fisico, atletico, si è allenato come un matto, ha fatto il bravo bambino e tutto quanto, però lui ha un attimo a perdere la libidine della storia. Gli manderemo, no? Un buon pane pugliese da mangiare il salame e speriamo che rimanga buono. No, teniamolo, Roberto, teniamola, non mandiamogli pane neanche la burrata, teniamolo lì ancora un po', perché secondo me può diventare utile il pugliese. No, sicuramente. Può diventare utile. È chiaro che cioè, al di là di tutto lo scherzo che si può fare, tutte le battute che si possono fare intorno a questo, c'è un fondo di verità, perché va bene, a Cassano è stato fatto presumibilmente un discorso chiaro, lui è lì, non è titolare, fa il giocatore tattico, entra quando serve e così via, però io credo che dopo un paio di partite in cui non si alza dalla panchina, magari qualche problema, diciamo così, di demotivazione o di potrebbe anche averlo, un giocatore come Cassano, insomma. Però fare il panchinaro fisso non credo sia da lui. Però mi sembra che ci sia la tentazione da parte di tutto il sistema a voler far esplodere Cassano. Dai, non ti sembra un po'? Perché la linea ufficiale è quella, Cassano è sereno, però non va bene. No, più che altro cioè, tutti vogliono l'esplosione di Cassano. Non lo so, sai, non quella... Non è che vogliono, probabilmente la temono, probabilmente dicono, ma com'è possibile che lui stia buono, fermo, zitto, nonostante lo incateni nella panchina. Quindi più che un volere l'esplosione di Cassano, è un temere l'esplosione di Cassano, perché, ripeto, secondo me può essere estremamente utile anche come giocatore tattico in questa nazionale. A quello sicuro, però come dice giustamente Prandelli, basta un minuto per cambiare il mondiale. Allora, magari qualcos'altro intorno al mondiale. Attorno al mondiale, gli spagnoli temono, tant'è che Marca, se andate sul sito del quotidiano spagnolo, appare l'immagine del Cristo de Corcovado di Rio de Janeiro, l'attrazione principale. E la scritta Cristo ten piedad, quindi abbi pietà di noi questa sera, quindi c'è un pellegrinaggio in atto. Tanta fiducia, ma sì, assolutamente. Torno alla roca. Assolutamente sì. E c'è un pellegrinaggio in atto, insomma, sono i tifosi spagnoli prima della partita di questa sera al Maracanã, sono riuniti, stanno tentando di, insomma, issare la bandiera spagnola sul Cristo del Corcovado a 700 metri d'altezza. Comunque confermiamo che la Spagna serve battere il Cile con 3 gol di scarto per giocarsi le sue chance. Sì, 3-0. Sono padroni del proprio destino, non dipende più da loro. Col 2-0 invece basta poi un buonissimo e dolcissimo biscotto Cile-Olanda 1-0 per eliminare gli spagnoli. Quindi, insomma, sì, è così. Salvatore da Modena, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione. Io tra l'altro sono nella Bassa Padana, per cui sento un po' a Manaus, quindi clima mondiale. Sì, c'è un po' clima da Manaus, umidità, un cielo velato per nulla eccitante. Dica. No, tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, non è che non abbiano fatto entrare Maradona al Maracanã semplicemente perché avevano paura per la scala di legno, per il tonnellaggio massimo. Oh, ma non dica, perché è così cattivo Salvatore? Perché? Si sarà presentato in oro di chi? Ma non è neanche nelle sue peggiori condizioni, insomma. L'abbiamo visto. Ultimamente sono rimasto sorpreso. Sì. In forma, nei programmi televisivi sta impazzando, sia in Argentina che in Brasile, sembra, assolutamente. Probabilmente lei non se lo ricorda nei tempi bui delle frequentazioni cubane, eccetera, quando c'erano fotografie che lo ritrovavano in strane piscine, lì era davvero alle soglie della malattia. Adesso mi sembra in discrete condizioni fisiche, tenuto conto dei... Insomma, facciamo del metabolismo, diciamo così. Chiamiamolo così. Ma poi anch'io ho un metabolismo un po' così. Quindi diciamo che... Metabolismo rallentato. Metabolismo rallentato. Voleva dire altro, Salvatore? Io, a parte che sono stato uno di quelli che ha chiamato prima del mondiale, delle convocazioni dei 23, e assolutamente non avrebbe voluto Balotelli al mondiale, spero di ricredermi in fondo da qua. Bravo. Non ti sei già ricreduto, scusa? Bravo Salvatore, no, vabbè, un atto di onestà. Hai sempre paura. Intanto un atto di onestà, perché normalmente adesso quelli che dicevano a Balotelli lasciamo la casa, Balotelli che ci sta a fare, eccetera eccetera, stanno tutti zitti. Salvatore, onore a Salvatore, che invece riconosce il suo errore, perché di errore si tratta. Strada. L'Italia deve cercare di arrivare almeno alle semifinali, poi dipende anche chi incontri ai quarti, può succedere di tutto al mondiale, però fissare un obiettivo prima mi sembra un po' mediocre. convocati. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Adesso ne diciamo una, perché c'è una formazione che vincerebbe il mondiale proprio senza neanche lasciare le briciole agli avversari. Sì, sì. È stata pubblicata oggi da Sport, il quotidiano catalano. Sport, quotidiano catalano, che formazione è Piantanida? Allora, è un 3-4-3, direi molto aggressivo, sì, insomma, attaccanti notevoli. L'11 è il seguente: Carbonero, Casillas in porta, Shakira, Piqué, Anderson, De Michelis, Rubio, Ramos in difesa. A centrocampo è capitano Satta, Boateng, Brandner, Schweinsteiger, Cabau, Schneider e Katrin Götze a centrocampo. E davanti super tridente con Marquezin, Neymar, Rocusso, Messi e Shaik Ronaldo. Ci sta tutto anche il mucchio selvaggio? Che sono ovviamente le la formazione delle WAX. Delle WAX, sì, sì, però è fatta bene, ruolo per ruolo. Cioè Shakira fa lo stopper, come fa Piqué, c'è Irina centro-sinistra, a sinistra nella zona d'attacco, come fa Ronaldo. E c'è Satta, la Melissa Satta, che insomma è l'unica rappresentante della italiana. Più che una nazionale, è una all-star. Sì, una sì, all-star, sì. E comunque vi consiglio, andatevela a vedere sul sito di Sport. E poi diteci se abbiamo sbagliato. Allora, 800 24 00 24, ci sono vari messaggi su Maradona che non è potuto entrare allo stadio. Io vi do invece una notizia, che è questa: è stato designato l'arbitro di Italia-Costa Rica e sarà il cileno Osses. Io te ne dico una su di lui, al cartellino facile, sì. Perché se non sbaglio nelle partite internazionali ha una statistica di 21 cartellini rossi in 16 partite. Ah, però. Sì. È stato un arbitro che ha diretto Costa d'Avorio, Giappone. Esatto. Altro dato statistico che conoscerai benissimo: questo è un mondiale in cui si sta segnando a ritmi da catena di montaggio. 49 gol fin qui nelle partite giocate, una media superiore, ben superiore ai 3 gol a partita. Sì, è una delle medie, guarda, leggevo proprio ieri, una delle medie più alte degli ultimi mondiali sicuramente. Adesso bisogna andare poi a rivedere indietro delle varie edizioni, però è veramente, veramente altissimo. Solo 2 partite con 0-0, le altre, insomma, per gli scommettitori sono tutte over 2.5, 2 o più gol. Tra l'altro, a proposito di scommesse, leggevo anche che... Italiani scatenati, come sempre. Italiani scatenati, no, un giro di scommesse. Follia. La notizia era di ieri, superiore sì. ai 25 milioni di euro per il primo giro, sì. Per il primo giro, con la partita che ha attirato le maggiori attenzioni degli scommettitori, che è stata ovviamente quella della Italia-Inghilterra. Su quella partita è stato scommesso veramente una enorme quantità di denaro. D'altra parte, nei mondiali può essere divertente anche vedersi la partita del picchetto in tasca, hai visto mai? Senza esagerare, casco sempre, ben allacciato sempre in testa. Casco allacciato e sempre senza esagerare. Altri numeri, altre curiosità, altre cifre su questo mondiale? Ma più che curiosità, io inviterei tutti i nostri convocati all'ascolto ad andare sul nostro profilo Twitter, perché c'è l'immagine straordinaria del tifoso più folcloristico del mondo, che al primo giro, anzi lui sconfina già nel secondo giro perché è del Messico, ed è questo signore che insomma è nel tipico abbigliamento del charro tequilero. Praticamente si è presentato allo stadio di Fortaleza imbottito di tequila, cioè addosso aveva 25 litri di tequila in bottigliette, bottiglione, tutto appiccicato addosso, si è presentato i tornelli e ha dovuto lasciare tutto in macchina. Mica male, Sì. Beh, poi per festeggiare gli avrebbe bevuto. Vabbè, spero non tutti lui. Ma non credo. Nemmeno più vivo. Alessandro da Venezia, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. È la ciao. Convocazione. Volevo solo dire una cosa, forse mi sono perso qualcosa. Per quanto riguarda quel biscotto, sì. Diciamo, citato tra Olanda e Cile, possibile, è vario ed eventuale, sì, sì, c'è sì. Questa, però c'è questa possibilità che è stata giustamente notata dagli stessi spagnoli. Però ma la prima discriminante, per aver capito, è forse la differenza reti, per cui se la Spagna vince 1-0 fa una goleada, poi la differenza reti contra... No, perché la differenza reti nella classifica avulsa, esatto. quindi tra quelle che sì, è tra, di, cioè se arrivano a mettiamo 6 punti tutte e tre, cioè la Spagna, la, il Cile e l'Olanda, conta la differenza reti tra queste tre, tra queste tre. Se, se la Spagna fa 50 gol all'Australia non conta, come non contano i gol che farebbe eventualmente l'Olanda questa sera all'Australia. La partita con l'Australia verrebbe eliminata, si fa la classifica avulsa solo tra le squadre che arrivano a pari merito. Io ho capito che era la differenza reti generale, e vabbè, e noi siamo qui apposta per spiegarlo. No, ma comunque comunque c'è, insomma, è una partita, è la partita davvero del dentro fuori per la Spagna, che si è mezza condannata con quella scoppola rimediata dalla, dall'Olanda. È chiaro che l'Olanda è stata sportivamente, agonisticamente cattiva, come è giusto fare anche in un mondiale, nel, nel rifilare quella punizione così severa a, agli spagnoli, però in quel modo rischia di aver davvero indirizzato il suo mondiale verso il primo posto nel girone, che viste le possibilità di incrocio è estremamente importante, e dall'altro lato aver indirizzato verso la porta di uscita i campioni del mondo in carica, perché sinceramente io faccio fatica ad immaginare la Spagna che ha giocato l'altro giorno che batte di goleada il Cile. Questo vorrebbe dire, ovviamente per il Cile sarebbe praticamente l'eliminazione, io fatico a pensare la Spagna dell'altro giorno in grado di battere in quel modo il Cile. Tra l'altro oggi è stato recuperato Fernando Torres, non so, a discapito di Diego Costa, non so se quanto questo possa essere un buon auspicio o una buona notizia. Massimo Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Sono come Cassano, non gioco. Non gioco? Okay. Perché? Si accontenta di guardare allora, dalla il problema, panchina. Non ho capito. Ti accontenti di guardare dalla panchina tu? Non ti arrabbi? Ma o ti puoi arrabbiare come Cassano? Si sta da Dio, non si suda ogni tanto una gambata e via. Allora, senti, sì. La Spagna non fa più di 2 punti e l'ho giocata. Fa un pareggio e un pareggio. Quindi fuori dalle scatole, perché mi sta proprio antipatica. Cioè la Spagna fa un pareggio stasera con il Cile, fa un pareggio anche l'ultima con l'Australia? Sì, perché sono ormai scoppiati, ma il bello è che non hanno ricambi, cioè sembrano così fantasmagorici, ma non hanno ricambi. Ma loro, a me sembra, ma io lo dico, questo lo dico da prima dell'inizio dei giochi, a me la Spagna... Per me la Spagna assomiglia dannatamente al Barcellona, quindi mi sembra una squadra arrivata alla fine di un ciclo meraviglioso, perché tutte le cose finiscono. Però voglio sapere da voi, visto che siete state facendo dei voli pindarici, che io andando in macchina pensavo di essere a 3000 metri e poi scendere giù in picchiata. Chiellini va al centro, ovviamente, perché non lo metterà più sulla fascia, perché non è possibile, giusto? Sì. E quindi chi mette Cerci là davanti? No, e qui no, allora mette Abate dietro, mette Abate da una parte a destra, Darmian a sinistra, e in mezzo Chiellini e Barzagli, come dovrebbe essere. Il migliore in campo di oggi. Roberto da Belluno, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione mondiale. Dica. Dalle Alpi, come la canzone di prima, volevo parlare del pugliese. Sì. L'hanno messo in cantina come una buona soppressa. Un buon pezzo di formaggio, ma riesce a durare, si matura fino alla fine del mondiale o si diventa ranzego, diventa raggido, esatto. Roberto, c'è questo rischio, c'è questo rischio, perché il pugliese fa il bravo, fino adesso ha fatto il bravo, però ci ha dato dentro duro dal punto di vista fisico, atletico, si è allenato come un matto, ha fatto il bravo bambino e tutto quanto, però lui ha un attimo a perdere la libidine della gli storia. Gli manderemo un buon pane pugliese da mangiare il salame e speriamo che rimanga buono. No, teniamola, Roberto, teniamola, non mandiamogli pane neanche la burrata, teniamolo lì ancora un po', perché secondo me può diventare utile. Va bene, allora dopo questa digressione gastronomica abbiamo assegnato anche la maglietta di tutti i convocati. Grazie a Franco Piantanita, Claudia Schiattone, a Roberto Scaltritti. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2.